in primo piano. Buongiorno, buongiorno da Gianfranco Fabi. Oggi martedì 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno, le ultime edizioni dei giornali prima dell'anno prossimo, e per tutti i giornali dicono domani i giornali non usciranno. I giornali di oggi valgono il doppio, ma valgono anche di più, perché sono ricchi di cronache di un po' tutto l'anno, pur in vari modi, con analisi, commenti, curiosità. Tutti quanti tracciano un po' un bilancio dell'anno che si chiude, un bilancio tra molte ombre e qualche luce, cercando anche di guardare alle prospettive per il 2014. Allora spezzerei una lancia a favore dei giornali: se magari li avete comprati poco durante l'anno, se magari li comprate una volta alla settimana o non li comprate per niente, oggi fate un piccolo sforzo, andate in edicola, comprate un quotidiano, cercate di aiutare un po' questi giornali che ci raccontano ogni giorno la realtà, e che l'editoria è un settore in crisi e che appunto hanno qualche difficoltà un po' tutti i gruppi editoriali. Quindi aiutare i giornali e aiutare un po' la libertà anche di guardare alla realtà, di avere il proprio giudizio, di sperare che la realtà sia forse migliore, quella futura, come diceva in fondo Leopardi nel suo dialogo col venditore di albanacchi. Quella vita che è una cosa bella non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce, non la vita passata ma la futura. Con l'anno nuovo il caso incomincerà a trattare bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero? E allora con questo inizio di vita felice, con questo augurio di vita felice, cominciamo a sfogliare un po' i quotidiani. Cominciamo da quelli che danno qualche buona notizia. Il Sole 24 Ore apre: borse, l'anno della rivincita. Listini al top, Tokyo più 56,7%, davanti a Wall Street e Francoforte. A fine 2013 Milano più 16,5%, al passo con le piazze europee. Spread ai minimi, 215, bene l'ultima asta dei BTP. Questi sono i numeri della finanza che sembrano poter anticipare una crescita dell'economia, una crescita possibile dell'economia, anche se poi tutti i giornali sottolineano anche altri numeri: i numeri della disoccupazione, i numeri della povertà, i numeri delle difficoltà che non vanno dimenticati, che ci sono, che indubbiamente segnano anche la nostra vita quotidiana, la vita del nostro prossimo. Ma stiamo ancora sulle notizie positive. Il foglio quotidiano pubblica un articolo del Wall Street Journal, firmato da Simon Nixon, ed è un articolo in cui si racconta un po' la realtà europea, e si dice che nonostante tutti i rischi, nonostante tutte le difficoltà, sembra che l'Europa si stia avviando verso una soluzione della propria crisi. La disoccupazione c'è, ma i deficit rientrano, le borse festeggiano, le riforme avanzano, non in Italia purtroppo. E Nixon scrive: mentre i rischi sono reali, non andrebbe nemmeno esclusa la possibilità di sorprese in senso positivo. Dopotutto i mercati azionari dell'Eurozona hanno fatto segnare ampi rialzi nell'anno passato. Ciò fa pensare che gli investitori si aspettano una crescita sostanziale degli utili societari nei prossimi anni, in disaccordo con le previsioni macroeconomiche più pessimistiche. Effettivamente, conclude Nixon, è dunque possibile che nel 2014 si assista a un'inversione del circolo vizioso visto all'opera in questi anni: crescita più rapida, disoccupazione in calo, stabilizzazione dei prezzi delle abitazioni che portano a cresciuta domanda e offerta di credito. Dopotutto, questo è esattamente quanto sembra essere accaduto nel Regno Unito e in Irlanda nella seconda metà del 2013, e nessuno se l'era aspettato. È questo articolo riportato dal Foglio Quotidiano sulle prospettive positive dell'Europa di fronte al 2014. Tutti i giornali peraltro riportano in prima pagina l'attesa, l'aspettativa, la trepidazione per la sorte di Michael Schumacher. Schumi tra vita e morte, gravi lesioni cerebrali, dice il Corriere della Sera. Il mondo è con Schumi, uniti nella preghiera, è la Gazzetta dello sport. Quelle rocce maledette, il titolo del giorno. I medici su Sciumi, non sappiamo se sopravviverà, titola La Stampa. E appunto su tutti i giornali la notizia di questa trepidazione, un po' di questo grande campione che tutti hanno apprezzato, che tutti hanno magari anche in parte invidiato quando vinceva titoli mondiali a raffica e sapeva dominare la velocità. Ecco, la sorte di questo campione ovviamente mette apprensione alla realtà, alla gente, all'opinione pubblica. Ma veniamo anche ai giornali che hanno una visione, diciamo così, molto critica, molto negativa. Il Manifesto ha un tappo di champagne che vola e il titolo è Hanno torto, hanno senza l'H, però è chiaramente un modo di dire che l'anno che è passato e l'anno che verrà è un anno di difficoltà. Il quinto anno della grande crisi, il paese presenta un medagliere penoso e umiliante. Il governo, scrive il Manifesto, galleggia sulle piccole intese. Il nuovo segretario del PD si dilunga in una guerra di posizione. Il capo dello Stato perde consensi. Grillo e Berlusconi si uniscono nello slogan del tutti a casa. I movimenti resistono e la sinistra, che non c'è, deve riguadagnare il campo perduto. Questo è il Manifesto. Così come accennava il Manifesto alle polemiche sul Presidente della Repubblica, la Lega spegne Napolitano, il titolo della Padania. Il segretario federale, il messaggio di fine anno del Quirinale, non lo guardo da 10 anni e promette che anche quest'anno non lo guarderà. Ce ne faremo una ragione. Anche poi altri giornali come il Giornale hanno un titolo grande, molto significativo, il Capodanno, ma con il trattino in mezzo, il capo trattino danno, e il riferimento a Napolitano è tanto esplicito che Napolitano è in grande nell'occhiello. Nel discorso di questa sera dirà ancora una volta no alle elezioni, ma gli italiani sono stufi delle sue ingerenze e la popolarità dell'inquilino del Quirinale è ai minimi storici. Le mine vaganti per Letta, il titolo dell'Unità. Il 2014 sarà un anno pieno di insidie sul lavoro, legge elettorale, riforme, si gioca tutto, rischio elezioni in agguato. Stasera il messaggio di Napolitano: più coraggio nel risolvere il disagio sociale. La Repubblica: niente voto ma Letta cambi, la roadmap di Renzi, legge elettorale e lavoro entro gennaio. E su Repubblica c'è anche una grande foto di Schumacher, Sciumi appeso al filo, non sappiamo se sopravviverà. E anche sul secolo XIX, la grande foto di Schumacher, così come sul Messaggero, che ha come titolo principale manovra, ecco le spese e le mance sotto accusa. Ma tornerei un attimo al giornale diretto da Alessandro Sallusti, dove c'è una forte critica da Napoletano, proprio nell'articolo di editoriale di prima pagina, L'anno canaria è quello che verrà, scritto dal direttore Alessandro Sallusti. Ma però c'è una piccola poi contropartita a fianco, lo vedremo tra un attimo, perché leggiamo prima la conclusione di questo articolo di Sallusti. Maledetto 2013, probabilmente, scrive Sallusti, questa sera Napolitano ci dirà a reti unificate, per chiudere in bellezza, che le elezioni sono sospese a tempo indeterminato, o le urne, pare sarà il senso del discorso. Non abbiamo dubbi, elezioni, quelle europee a maggio sono ineluttabili, quelle politiche sono l'unica soluzione allo schifo quotidiano del governo, scrive Alessandro Sallusti, e del Parlamento illegittimo per sentenza. Benedetto 2014, quello che potrebbe portarci l'uscita di scena con disonore di Napolitano e la caduta del governo truffa, Letta, Alfano e libere elezioni. A mezzanotte brindiamo, ne vale la pena, auguri Italia. Questi sono gli auguri di Alessandro Sallusti. Ma si diceva, sulla prima pagina del giornale c'è anche un anniversario, l'anniversario dello stesso giornale, i nostri primi 40 anni. E Mario Cervi, che è stato tra i fondatori del giornale insieme ma Indro Montanelli, ricorda quegli anni, ricorda la volontà appunto di Montanelli di andare controcorrente era il titolo della sua rubrica quotidiana, molto pungente, e il giornale festeggia appunto i suoi 40 anni. Lo stesso Cervi è stato per qualche anno direttore del giornale. Ma leggiamo l'interessante conclusione di questo articolo di Mario Cervi. Montanelli aveva il fioretto, ma poteva fare molto male. male e qualcuno rimprovera a Sallusti l'uso della mazza ferrata. Il rimprovero gli viene spesso rivolto da chi ama come arma il pugnale. Non sono sempre d'accordo con Sallusti, scrive Mario Cervi sulla prima pagina del giornale. Personalmente ho stima e apprezzamento per Giorgio Napolitano. Siamo uomini liberi in un giornale libero. Il giornale, al di là delle certificazioni giuridiche, scrive Mario Cervi, è di Silvio Berlusconi. Più ancora, il giornale esiste perché Silvio Berlusconi lo salvò quando era in procinto di chiudere i battenti. Tanti avrebbero strappato lo champagne se quel foglio controcorrente fosse defunto. Tanti hanno strappato lo champagne per l'estromissione ufficiale del Cavaliere dalla ribalta politica. Molti, troppi cantori della democrazia l'apprezzano se tutti condividono le loro idee. Non ammiro, conclude Mario Cervi, gli slanci adoranti di alcuni berlusconiani, ma quando vedo l'arroganza e la settarietà intolleranti di alcuni anti-berlusconiani, finisco per pensare che abbiano ragione con il loro. Meno male che Silvio c'è. Questo era Mario Cervi, che in un certo modo prende le distanze da Sallusti nel giudizio da Napolitano, e ci conferma che il giornale è in fondo l'organo ufficiale di Silvio Berlusconi, ma questo forse lo sapevamo, ed è questo anche... dice appunto dei toni molto caldi di polemica contro Napolitano. Forse qualcuno potrebbe ricordare che lo stesso Berlusconi, non più tardi della primavera scorsa, salì al Colle proprio per pregare Napolitano di restare in carica, per evitare appunto che l'impasse politico attorno alla nomina del Presidente della Repubblica, impasse peraltro creato non certo dalla destra, ma soprattutto dal Partito Democratico, diventasse sempre più difficile. Ma guardando e pensando appunto ai toni anche della polemica politica, ai toni molto forti che spesso in questo periodo si hanno, si vedono, si sentono sul fronte della politica, vorrei sottolineare un articolo sulla prima pagina dell'Unità di Paolo Di Paolo. È ora di uccidere il cattivismo. L'altra faccia, scrive Paolo Di Paolo sull'Unità, del disincanto e della frustrazione è la rabbia, non quella che spinge a un riscatto, che fa correre a denti stretti verso un obiettivo che precede un cambiamento. È un'altra rabbia, un'aggressività cieca che trascina tutta, cerca un bersaglio, si sfoga, ma il bersaglio è soltanto un pretesto, perché quella rabbia viene da lontano, è sempre eccessiva, sproporzionata, come si vede in certi liti tra automobilisti o in fila alla banca, ha in sé lampi di violenza. E continua Paolo Di Paolo. Abbiamo un serio problema di un numero sempre più vasto di persone che non misurano più il peso delle parole. Le dicono, le urlano, come fosse non avrebbero il coraggio di fare per la strage o faccia a faccia. Queste persone le abbiamo accanto, le incontriamo per strada, sugli autobus, ci sorridono o forse no, fanno il proprio lavoro, magari bene, può darsi che siano ottimi genitori, disposti a farsi in quattro per i figli, poi però con una disinvoltura pare l'irresponsabilità digitano insulti, parole grevi, offensive, parole che i propri amici e genitori non direbbero, senza considerare per un istante che le parole hanno un peso, le circondano di faccine sorridenti. E continua: se oggi, prima della mezzanotte, avete 5 minuti liberi, cercate in internet il discorso tenuto dallo scrittore americano George Saunders ai laureandi alla Syracuse University. È basato tutto sulla gentilezza. Paolo Di Paolo sull'Unità. Come possiamo diventare più premurosi, più aperti, meno egoisti, più presenti, meno deludenti e così via? Già, bella domanda. Lasciate dunque che vi si dica il modo c'è. Immergersi in un'opera d'arte serve, pregare serve, meditare serve, una chiacchierata schietta con un caro amico serve, sentirsi parte di una tradizione spirituale serve, riconoscere che ci sono state innumerevoli persone davvero intelligenti prima di noi che si sono poste queste stesse domande e ci hanno lasciato le loro risposte serve. Fate presto, iniziate subito. In ciascuno di noi c'è un equivoco di fondo, un vero malessere in verità. Si tratta dell'egoismo, ma la cura esiste. Siate quindi gentili e proattivi, addirittura in un certo senso i pazienti di voi stessi. Cercate le medicine più efficaci contro l'egoismo, cercatele con tutte le vostre energie per tutto il resto della vostra vita. Fate tutte le altre cose, quelle ambiziose, viaggiare, diventare ricchi, acquistare fama, essere innovativi, essere leader, innamorarsi, fare fortuna e perderla, nuotare nudi dei fiumi in mezzo alla giungla, ma qualsiasi cosa farete, nella misura possibile, eccedete in gentilezza. Fate ciò che vi può indirizzare verso le risposte a quelle grandi domande, cercando di tenervi alla larga dalle cose che possono sminuirvi e rendere banali. Questa è una citazione di Paolo Di Paolo dello scrittore George Saunders. e conclude: auguriamoci per il 2014 di saper difendere ciò che crediamo giusto, ma con le parole giuste, con energica, luminosa gentilezza. Ecco, vorrei fare mio questo commento. Un anno certamente difficile, certamente complesso, quello che abbiamo vissuto, ma un anno contraddistinto anche dalle invettive, dalle parole dure, dalle parolacce anche, dal pancato rispetto delle persone. Se il 2014 potrà essere un anno segnato maggiormente dalla gentilezza e dal sorriso, avremo certamente fatto un passo avanti, non certo perché questo risolvono i problemi, ma perché aiutano certamente ad affrontare una realtà che è già difficile. Ci fermiamo un attimo, ma restate con noi. In primo piano. Eccoci qua ancora, buongiorno ancora da Gianfranco Fabi. Proseguiamo la nostra lettura dei giornali tra le tante ombre e le luci che vogliamo comunque avere nel guardare in avanti, nel guardare questo 2014, facendoci gli auguri di buon 2014. Ma nei giornali c'è indubbiamente anche dell'amarezza nel guardare appunto alle polemiche di questi giorni. Andrea Schwerson sul Foglio Quotidiano ripercorre un po' i temi delle polemiche su Napolitano, ve lo leggo, è molto breve. La nazione è sbandata, nessuno sa cosa fare, ciascuno pensa a sé, lui si dimetterà, non si dimetterà, la risposta è incerta, farebbe bene, farebbe male, la risposta è incerta, favorirebbe dimettendosi le tanto attese riforme o renderebbe più difficile dimettendosi le tanto attese riforme, la risposta è incerta. Si tratterebbe di uno shock positivo, di un colpo di knockout? Di nuovo la risposta è incerta, una sola in fondo è la certezza: se Re Giorgio se ne va, sarebbe quello nostro, il primo paese al mondo che festeggia il Capodanno l'8 settembre. E quindi il segnale in fondo di una sconfitta sarebbe questa vicenda legata appunto a un Presidente della Repubblica che sta cercando di portare il Paese verso le riforme, ma che si trova di fronte molti, molti ostacoli. E proprio a livello di grazie da dire, è significativo l'articolo di editoriale, l'articolo di fondo di Avvenire firmato da Luigino Bruni. Alleiamo gli occhi, è il titolo, fine anno, i grazie e le storie da dire. E leggiamone una parte, perché Luigi Bruni afferma: il 31 dicembre è soprattutto il giorno del ringraziamento, anche civile. L'esercizio del grazie, della virtù, della gratitudine è importante sempre, ma è essenziale in ogni esodo attraverso un deserto. Il grazie, soprattutto se è serio e costoso, è una risorsa straordinaria per continuare a sperare e a camminare. Sono molte le persone da ringraziare oggi. Voglio iniziare, scrive Luigino Bruni, dagli imprenditori, quelli che continuano a rischiare risorse, energie, talenti per salvare il lavoro e vanno avanti nonostante tutto. A quegli imprenditori che costruiscono benessere e pagano le tasse. Ce ne sono tanti, anche se non se ne parla e nessuno li ringrazia. Quando un imprenditore decide di pagare le tasse, sa che in un mondo ad alta evasione come il nostro sta pagando molto di più di quanto sarebbe giusto ed equo pagare. Sa di pagarle anche per i suoi colleghi che hanno posto della sede fiscale a Monte Carlo, ma usano gli stessi servizi pubblici. E poi Luigino Bruni ha altri ringraziamenti. Grazie a tanti accompagnatori e accompagnatrici dei poveri e dei soli che con la forza dell'agape curano le disperazioni, ai tanti amministratori pubblici onesti che non mollano quanto avrebbero molte ragioni per farlo, alle maestre e agli insegnanti che in una scuola ferita, impoverita e disprezzata continuano ad amare i nostri figli. Infine, ma dovremmo continuare a lungo, grazie alle famiglie, alle madri, ai padri, anche agli anziani che continuano a rammentare la Fides, quella fede e quella corda che ancora ci tiene insieme. Rammendiamo il tessuto sociale e ci rammentano le nostre radici e le nostre storie. Nelle Mille e una Notte, Shahrazad per non morire non doveva smettere di raccontare storie. Se oggi vogliamo vivere e far vivere, dobbiamo raccontarci più storie di vita vera, trovare nuove ragioni di speranza, non vana, e ripeterci continuamente l'un l'altro, non mollare. E conclude Luigino Bruni: non smettere di ringraziare. E questo ringraziamento della prima pagina di Avvenire agli imprenditori, a chi rischia, a chi è nella società, a chi costruisce, a chi voglia di costruire, a chi accompagna anche le difficoltà, è certamente un ringraziamento che va dato a coloro che magari non fanno notizia, non parlano perché sono solo gli imprenditori che falliscono, magari quelli che fanno notizia, mentre ce ne sono la grande maggioranza che porta avanti il proprio mestiere, che crea lavoro, che cerca di creare benessere. E questo appunto è una società composita, complessa la nostra, ma una società che, in cui bisogna portare a galla anche i tanti valori positivi delle tante persone che si impegnano. E Alberto Quadriocurzio sul Sole 24 Ore firma un editoriale che parla anch'esso in modo molto diverso, molto più economico, della crescita e del lavoro, l'industria vero motore dell'Europa più integrata. E scusate, Quadriocurzio sottolinea la necessità di un'attenzione dell'Europa verso la realtà industriale e conclude il suo articolo: il primo Consiglio europeo del 2014 sarà dedicato all'industria ed è interesse dell'UEM, cioè dell'Unione Monetaria Europea e dell'Unione Europea, che questo vertice dei capi di Stato e di Governo il nuovo anno possa diventare quello dedicato all'economia reale, di cui l'industria nei suoi molti settori e per la sua integrazione con i servizi rimane il centro. Non sappiamo se si andrà verso un industrial compact, scrive Alberto Quadriocurzio, come richiesto anche dall'incontro della Confindustria italiana con quella tedesca in ottobre. Siamo però convinti che l'Italia, anche in vista del suo semestre di presidenza europea, debba puntare molto in questa direzione, dove ha interessi analoghi, una volta tanto, a quelli della Germania e quelli della gran parte dell'Europa continentale. Quindi è un, diciamo, un appello a guardare all'economia reale, un'economia che sta alla base della società, che sta alla base della possibile sempre crescita economica. Ma dato che comunque il nostro panorama deve comprendere anche le visioni, diciamo, pessimistiche, guardiamo all'editoriale del giorno di Giancarlo Mazzucca, attese e deluse. E Mazzucca scrive: mio nonno diceva sempre che il 13 e il 17 sono numeri sfortunati e che gli anni bisestili non portano bene. In questo 2013, scrive il direttore del giorno, che finisce oggi, mi sono spesso ricordato di quanto diceva nonno Agostino, che sarà anche stato un po' superstizioso, ma possedeva quella saggezza campagnola che manca al sottoscritto. In effetti è una fortuna che stasera guideremo il vecchione bruciandolo in piazza, perché il 2013 è stato peggio di molti anni veramente bisestili. 12 mesi fa, scrive Giancarlo Mazzucca sul giorno, pensavamo di aver superato il giro di boa, ci dicevano che la crisi era ormai finita e che con le nuove elezioni politiche di febbraio sarebbe cambiato tutto. Oggi ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano. L'economia non è mai ripartita, un governo Monti che ha solo tagliato senza favorire la ripresa, è succeduto un governo Letta che finora ha fatto altrettanto, se non peggio. Morale della favola, conclude Giancarlo Mazzucca sul giorno. Brindiamo al 2014 con gli stessi problemi di un anno fa e con l'aggravante che nel frattempo sono diventati ancora più insormontabili, dato lo spreco di tempo prezioso. Molti danno colpa all'Europa per l'impasse in cui ci troviamo. Bruxelles non ha certo fatto granché per aiutare l'Italia, ma il gioco dello scaricabarile è sbagliato. E scrive ancora Giancarlo Mazzucca in questo editoriale sul giorno: è giunto il momento di assumerci le nostre responsabilità. Per queste ragioni concediamo una prova d'appello a Letta. Non riesce a raddrizzare la baracca nei prossimi mesi con questo governo di larghe intese, che in realtà dopo le ultime defezioni è diventato di labili intese, oppure è molto meglio tornare subito alle urne, anche se, come abbiamo visto, non è affatto scontato che il ricorso alle urne sia sempre salvifico. Quindi una pennellata di pessimismo in questa analisi di Giancarlo Mazzucca, ma in fondo anche un'apertura di speranza verso le possibilità del governo Letta di affrontare i problemi reali, anche perché è l'unico governo che abbiamo ed è difficile pensare ce ne possano essere altri data la realtà politica. Tra gli auguri vi segnalo sempre sul giorno quelli del sindaco di Milano Giuliano Pisapia: non vinca il pessimismo, il tempo vola, scrive il sindaco di Milano, non me ne sono quasi accorto, eppure un altro anno è passato. Mi guardo intorno e vedo i figli degli amici che erano bambini e che diventano ragazzi. Alla festa di Natale, che è anche per la mia famiglia un appuntamento irriducibile, vedo mia madre sempre più anziana e ciò mi verrebbe da credere sempre più spesso che gli impegni, ma purtroppo gli impegni non me lo permettono. Da qui, dalla mia stanza di Palazzo Marino, saluto questo faticoso 2013 e comincio a guardare avanti. tanti, il sindaco di Milano, che ci invita a non dare spazio al pessimismo. E sul fronte politico si sofferma l'editoriale di Antonio Polito sul Corriere della Sera, dove si parla di Renzi, il PD, la lotta di governo, e Polito inizia ricordando i tempi della Democrazia Cristiana e scrive appunto ai tempi della DC, quando cambiava il segretario del partito di maggioranza, l'equilibrio si ristabiliva o con una crisi di governo o con un rimpasto. Ai tempi del PD il nuovo segretario non può chiedere né l'una né l'altra, non il rimpasto perché sa troppo di Prima Repubblica, anche se la sua corrente, che non sembra essersi per nulla sciolta, ha già la colina in bocca, non la crisi perché più che al buio sarebbe una notte della Repubblica, prima perfino dell'opzione estrema, scusate, del ricorso alle urne, reso impossibile dalla sentenza della Consulta sulla Corte Costituzionale e per giunta costretta al trauma dell'elezione di un nuovo capo dello Stato, visto che quello attuale, considerando tradito il patto delle riforme sulla base del quale fu eletto. In più, a differenza di un segretario della DC, Renzi deve render conto 2 milioni e rotti di elettori che lo hanno plebiscitato sulla base delle sue promesse, non poco. Come se ne esce allora? E allora vediamo la conclusione di Antonio Polito in questo editoriale del Corriere della Sera. Un nuovo equilibrio politico può fondarsi solo su una solita performance di governo di entrambi i protagonisti. Renzi dice che è in grado di fare la legge elettorale in un mese. Si applichi dunque a questa sfida con tutta la determinazione e l'astuzia di cui è capace. Letta dice che sta salendo il PIL e stanno scendendo le tasse. Provi a convincere gli italiani che non ne sono così sicuri. Entrambi, conclude Antonio Polito sul Corriere della Sera, tengono a mente 2 cose. Da prima, che se ciascuno tenterà di intestarsi tutto il merito delle riforme, non ne farà nemmeno una, perché l'altro le impedirà. La seconda è che tutti e due appartengono a un partito che non è la DC, non ne ha la forza elettorale né il radicamento, e dunque, senza alleati, falliranno. E questa è l'analisi di Antonio Polito sul Corriere della Sera, sulla necessità appunto che il governo da una parte e il partito dall'altra vadano nella stessa direzione nel cercare l'uno di attuare le riforme economiche e l'altro le riforme politiche, anche perché la riforma elettorale spetta soprattutto al Parlamento più che al governo, e in Parlamento giocano innanzitutto i partiti. Ecco, ci sono le condizioni perché queste riforme si facciano, ma bisogna che non solo il Partito Democratico sia unito in questa strategia, ma che sappia anche cogliere la possibilità e apprezzare e valorizzare anche l'apporto degli alleati. Sempre sul Corriere della Sera, il titolo grande è dedicato alla svolta contro il lavoro nero. Multe su fino a 10 volte, spread ma così basso dal 2011. Questo titolo raccoglie un po' i temi politici degli ultimi giorni, soprattutto con i decreti economici che sono stati firmati da Napolitano. Ma c'è anche un articolo di Sergio Rizzo: buone regole sui bilanci per superare gli apparati, partiti e patrimoni. Sergio Rizzo ricorda appunto anche le polemiche degli ultimi giorni sul finanziamento dei partiti, sulle spese dei vari partiti, sulla necessità appunto di normalizzare, soprattutto di moralizzare questi partiti che assorbono una fetta significativa della spesa pubblica. Tra l'altro tutti i giornali oggi danno anche la notizia dell'ex tesoriere della Margherita che dovrà pagare i rimborsi elettorali sottratti al 2002, l'Usi condannato dovrà restituire 22 milioni. Ma torniamo a Sergio Rizzo, e Sergio Rizzo sottolinea come il fatto è che la sopravvivenza degli apparati è diventata la reale e inconfessabile finalità di una certa politica. Ragione per cui il nostro ceto politico, secondo il professore Antonio Merlo, affonda nella mediocrità. Nella mediocrasi, ha detto il direttore del Dipartimento di Economia della Pennsylvania University al Fatto Quotidiano, si punta a candidare non chi assicura le migliori performance all'elettore, ma all'organizzazione che gli ha dominati. Non conta quanto sei bravo, ma quanto sei disposto a tenere in vita il sistema, ma a lungo andare con una pesantissima contraddizione, ossia la perdita irrecuperabile del bene più prezioso in politica, la credibilità appunto. Come potrebbe un elettore continuare a fidarsi di un partito che usa le proprie risorse per assicurarsi posti di lavoro inutili a uso e consumo dei fedelissimi, per giunta candidati alle elezioni? E conclude Sergio Rizzo questa sua analisi. Ecco perché, se si volesse davvero cambiare il registro, sarebbe necessario necessario svuotare gli apparati. Non è sufficiente agire sulle fonti di finanziamento, ma soprattutto su come quei finanziamenti pubblici o privati vengono spesi. Serverebbero però misure ben più coraggiose di quelle previste nel decreto del governo. È forse troppo chiedere che gli statuti dei partiti e delle fondazioni di emanazione pubblica contengano nero su bianco disposizioni precise sull'uso delle loro risorse economiche e del loro patrimonio? È in fondo l'appello di Sergio Rizzo su una delle riforme forse più significative che possono esserci, che la riforma che potrebbe stare alla base della politica, la riforma di quegli organismi che sono essenziali nella vita politica come i partiti. Concludiamo questa seconda parte rapidamente guardando sempre al futuro con la stampa che dice addio 2013, arriva l'anno del Brasile, ma insieme al Brasile c'è anche un'altra realtà in crescita e c'è un'analisi di Giulio Albanese su Avvenire, l'Africa che sta crescendo, contesa tra Cina e BRICS, cioè tra i paesi emergenti, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Ecco, l'Africa è un'Africa che si presenta a macchie di leopardo con paesi che crescono, paesi ancora in grande difficoltà. L'analisi di Giulio Albanese è su Avvenire. Ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. In primo piano. Buongiorno, bentornati a quanti ci ascoltano da Gianfranco Fabi e saluto anche Mauro Meazza. Buongiorno. Buongiorno Mauro, Mauro Meazza, caporedattore del Sole 24 Ore, tra l'altro nei prossimi giorni inaugurerà questa rassegna stampa in diretta e non più solo il telefono. E guardiamo appunto al Sole 24 Ore di oggi, ho già accennato all'articolo di Alberto Quadriocuzzo sull'industria, ovvero motore di Europa più integrata, all'apertura, borse, l'anno della rivincita, ma c'è come sempre sul Sole 24 Ore un'analisi anche della nostra realtà un po' complessa e complicata. Da oggi 60 nuove proroghe. Sì, perché è arrivato l'abituale mille proroghe. Per i non addetti, insomma, il mille proroghe è questo provvedimento con cui verso la fine dell'anno, di solito appunto gli ultimissimi giorni, si dispone che una serie di termini vengono fatti slittare in avanti. Questa volta era particolarmente urgente, addirittura i mille proroghe sono diventati due, ma insomma questo è stato un anno particolare, questo 2013, quindi anche due mille proroghe. Uno in realtà è il Salva Roma cosiddetto, cioè i fondi per Roma che il governo aveva ritirato e ha ripresentato di nuova forma, l'altro è il mille proroghe. Vengono prorogate un po' di cose, tra cui anche qualche aumento che doveva esserci, non so quanto possa far piacere, c'è stata una frenata sull'aumento in vista per le sigarette e sono stati fermati anche gli interventi sulle sigarette elettroniche, nel senso che il governo ha deciso per il momento di non intervenire, vedremo poi che fine faranno. Poi ci sono altre proroghe, i bilanci dei comuni, la sospensione dei provvedimenti di sfratto e così via, lo raccontiamo. Appunto si chiama mille proroghe perché si fa anche fatica a riassumerlo. Certo. Ma poi in realtà sono 60, comunque questo conferma che l'Italia è un paese fondato sulla proroga, se non sulla deroga ogni tanto anche. Anche perché spesso si pongono dei termini decisamente ambiziosi, come se non si conoscesse non solo la nostra pubblica amministrazione, ma il meccanismo della pubblica amministrazione in generale, cioè si danno dei termini molto vicini per attuare le cose, per modificare delle cose e poi ci si rende conto che questo è assolutamente impossibile e quindi così si va avanti magari poi di anno in anno da un mille proroghe all'altro. Però c'è anche una cosa che riguarda le date un po' di sapore diverso. L'anno prossimo, cioè da domani, le agenzie di rating ci dicono il calendario di quando intervengono con i loro classamenti. Prima, cioè fino a da tutto il 2013, la Standard & Poor's, per dire, interveniva quando pareva a lei e questo generava sempre un po' di tensione sui mercati. Adesso c'è un calendario, lo spieghiamo in finanza. L'11 giugno mi pare sia la data di Standard & Poor's, l'11 aprile è la prima data che viene da un'agenzia di rating canadese. Questo dovrebbe dare un po' di stabilità, diciamo, ai nostri mercati. Poi, come sai, in pagina 2-3 oggi spieghiamo anche l'anno di borsa, è stato un buon anno per la borsa italiana, in generale per tutti i mercati finanziari. Certo. Occidentali. Magari possiamo leggere le prime righe di questo commento di Fabrizio Galimberti, in cui dice: una delle battute più famose del premio Nobel dell'economia Paul Samuelson riguarda i poteri previsivi delle borse, le quali, diceva l'illustre economista scomparso, hanno previsto 7 delle ultime 5 recessioni. Parafrasando la battuta, si può potrebbe dire che le borse hanno anche previsto sette delle ultime cinque riprese, al che sorge l'inquietante interrogativo, scrive Fabrizio Galimberti: l'effervescenza dei mercati azionari, specialmente evidente nello scorso anno che si chiude stanotte, fa parte delle previsioni giuste o di quelle sbagliate? E questa è una domanda a cui preferiremmo non cercare di rispondere. Ti dico solo, si dice sempre, no? Il mercato finanziario anticipa le tendenze future, quindi dovremmo vedere rosa per il 2014. Vede rosa in qualche modo anche il ministro Giovannini nell'intervista che oggi presentiamo, dice: ma insomma, nel terzo trimestre c'è stato un saldo di tra assunzioni e cessazioni positivo, quindi ci sono state assunzioni di giovani, quindi, come dire, il peggio è alle spalle, sembra dire un po' Giovannini in questa sua intervista, in cui poi annuncia anche una serie di misure che verranno prese nel 2014, di confronti con le parti sociali. E speriamo che sia così, Gianfranco, cosa possiamo dire? Certo, quest'anno non è stato brillantissimo, né soprattutto per l'occupazione, per le borse, come abbiamo visto, molto meglio, ecco. Grazie Mauro Beazza, allora auguri, buon 2014, sarà un 2014 comunque impegnativo, perché le cose da seguire non mancheranno. L'economia sembra essere avviata verso una strada in cui sarà possibile cercare una maggiore crescita, ma facciamoci gli auguri sinceri. Grazie Mauro Beazza. Grazie a voi, auguri. Allora torniamo in questi ultimi minuti a dare un po' una scorsa ad alcuni degli argomenti che i giornali ci offrono, anche un po' guardando in avanti. La Repubblica ci ricorda che l'aviazione civile compie 100 anni, ecco, magari non ce ne rendiamo conto, e sono solo 100 anni che si può acquistare un biglietto aereo e andare da una parte all'altra del mondo. Lucio Cilis su Repubblica scrive: oggi con $9,323 è possibile comprare il giro del mondo in una classe economica affollata, oppure sdraiarsi in una lussuosa suite tra le nuvole, godendo però di un solo biglietto di andata e ritorno verso mete indimenticabili. Ma esattamente 100 anni fa, nelle prime ore del Capodanno del 1914, che segnò l'inizio dell'aviazione civile al costo di $400, che sono equivalenti agli attuali 9,323, un passeggero riuscì a entrare per sempre nella storia. Abraham Fale, già sindaco di St. Petersburg in Florida, si aggiudicò l'asta per un unico biglietto disponibile sul primo collegamento con passeggeri paganti, mai tentato nella storia dell'aviazione. Il posto era scomodissimo, il peso consentito al decollo permetteva di far accomodare solo una persona e un bagaglio a mano per massimo 80 kg complessivo. Il volo fu organizzato sulla linea della compagnia aerea della Baia, fondata da Thomas Benos, ai comandi del biplano Tony Janus, un altro nome in cima alla lista dei pionieri dell'aviazione, che soltanto qualche mese prima aveva lanciato dall'aereo un ospite, il primo paracadutista della storia. E questo racconto appunto di come l'aviazione civile abbia 100 anni, 1914. Un'altra notizia la prendiamo dal Corriere della Sera, è di Edoardo Boncinelli, torna un po' sui sentimenti che noi abbiamo, che tutti più o meno hanno: invidia in volto e rabbia sui pugni, le emozioni non sono nel cuore. Edoardo Boncinelli si spiega il ruolo del cervello, il rapporto tra la mente e il fisico, così si riscrive la Marta di quello che sentiamo. L'amore è un po' dappertutto e le emozioni colorano e commentano sontuosamente i giorni della nostra vita, e anche in fondo in questa fine di 2013-2014, tra tante promesse, proposte e richieste, diamo spazio anche alle emozioni. Ma continuiamo guardando questo articolo di Edoardo Boncinelli: noi siamo così gelosi e innamorati delle nostre emozioni che ci rifiutiamo di studiarle, di sentirle studiare, ma ci siamo recentemente dovuti sentir dire da molti, soprattutto da Antonio Damaso, che le emozioni sono un fatto naturale e hanno un ruolo biologico, esprimono la coloritura emotiva degli eventi che abbiamo vissuto e ci avvertono fedelmente se una cosa ci piacerà o non ci piacerà, se ovviamente lo sapremo ascoltare. Insomma, le emozioni servono e hanno un ruolo fondamentale nell'aiutarci a vivere, proprio perché sono, per questo sono universali, come sanno bene i poeti, anche se cercano di darci a intendere che ogni emozione di ogni individuo è diversa da ogni altra. In particolare, ciascuno pensa che le sue pene d'amore come non le ha mai vissute nessuno e mai le vivrà. Va detto che senza questa convinzione non ci sarebbe gusto a provarle e in definitiva a vivere. Perciò il nostro corpo ci concede sempre l'esclusiva e la sensazione che tutto sia squisitamente nuovo e mai provato, grazioso e potente inganno che la natura legge il nostro corpo, ci perpetra in continuazione. Per il nostro bene. Le emozioni, in fondo, ci aiutano a vivere, ci aiutano a vivere il mondo in una maniera partecipata, soprattutto a far sì che la nostra vita non sia qualcosa di distaccato, ma sia di qualcosa che possa avere ogni giorno qualcosa da vivere e da raccontare. E avevo parlato anche della necessità della gentilezza, avevo sottolineato il commento sulla stampa di Paolo. Ecco, un esempio di gentilezza viene un po' dal Papa Francesco che ieri ha nominato segretario della Conferenza Episcopale Italiana un nuovo vescovo, un vescovo Nunzio Garantino, vescovo di Crotone, lo ha fatto in maniera un po' irrituale, e lo ha fatto con una lettera ai fedeli, non di Crotone ma di Cassano allo Ionio, e scrive Papa Francesco: vi domando per favore di comprendermi e di perdonarmi. Sono le parole con cui si conclude l'inedita lettera inviata ieri da Papa Francesco ai sacerdoti e ai fedeli della diocesi calabrese di Cassano allo Ionio, contestualmente all'annuncio della nomina del loro vescovo Nunzio Garantino quale nuovo segretario della CEI ad interim. Ecco, questa notizia è un po' su tutti i giornali, ve la leggo dalla stampa di Andrea Tornielli. La carica di segretario dell'Episcopato Italiano era vacante da alcune settimane dopo la nomina di Mariano Crociata vescovo di Latina. Francesco non ha voluto perdere tempo e ha designato un suo candidato a capo della macchina organizzata della CEI. Garantino, pugliese di Cerignola, con un passato negli uffici della Conferenza Episcopale Italiana, è stato nominato ad interim e non lascerà la sua diocesi, trascorrendo alcuni giorni della settimana a Roma per fare ritorno in Calabria nei weekend. E continua Tornielli: il Papa ha scritto ai fedeli di Cassano allo Ionio per chiedere loro aiuto. Per una missione importante nella Chiesa italiana ho bisogno, scrive il Papa, che Monsignor Garantino venga a Roma almeno per un periodo. So quanto voi mi amate il vostro vescovo, c'era Bergoglio, e so che non vi farà piacere che vi venga tolto, e vi capisco. Per questo ho voluto scrivervi direttamente, come chiedendo il permesso. Egli sicuramente preferisce rimanere con voi perché vi ama tanto, l'affetto è reciproco, e vi confesso che vedere questo amore filiale e paterno del popolo e del vescovo mi commuove e mi fa rendere grazie a Dio. Ecco, è la commozione del Papa nel chiedere l'aiuto ai fedeli perché in fondo gli prestino il loro vescovo per portare, per riuscire a portare appunto l'organizzazione della Chiesa, di dare un'organizzazione appunto alla Conferenza Episcopale Italiana. Il nuovo segretario ha una missione importante. Siamo proprio agli sgoccioli della nostra sera stampa, del nostro anno insieme ai giornali. Vi segnalo dalla stampa: tempo di scosse e di riscosse di Massimo Gramellini. Due americani su tre considerano il 2013 uno degli anni peggiori della loro vita. So cosa state pensando, ma il terzo americano dove ha vissuto? E Massimo Gramellini ci ricorda che il 2014 pubblico sarà nei mondiali brasiliani giocati quasi da fermi per il troppo caldo. Il 2014 privato potrebbe essere finalmente l'anno del fervore, la forza irresistibile che infonde passione e concentrazione in ciò che si fa senza perdere più tempo a lamentarsi, invidiare, rinfacciare. Andrà tutto bene alla fine, e se non andasse bene vorrà dire che non è ancora la fine. Buon anno di scosse e riscosse da Massimo Gramellini sulla stampa e da Gianfranco Fabi dai microfoni di Radio 24.